one of the reasons I put this little meditation period in is to show you that in daily life, if you just stop, even for 5 minutes, it has an effect. Quindi il motivo per cui ho inserito questa meditazione così breve è per dimostrarvi che anche nella vita quotidiana 5 minuti o poco più di meditazione può avere un effetto. It allows whatever accumulation of restless emotions to die away, you see. Quindi permette a qualunque tipo di emozioni, anche un po' così irrequiete o un po' di agitazione, permette di sciogliersi. And if you do it often during the day, you see, you just feel more peaceful. E se lo fate spesso durante il giorno, vi sentirete più in pace. And you also find you have much more energy. E scoprirete anche di avere molto più energia. Emotions take a lot of energy. Le emozioni ci succhiano un sacco di energia. So I forgot to mention last night when I was during the introduction that we don't have a meal in the afternoon. Mi sono dimenticato di dire nell'introduzione di ieri sera che noi non abbiamo un pasto serale. So unless you have a physical problem like diabetes. Meno che non abbiate qualche problema fisico, tipo il diabete. There is even so a softening of our fast with a biscuit. C'è comunque per tutti un alleggerimento del nostro digiuno con un biscotto. There's two reasons. First of all, to understand what the Buddha means by renunciation. E questo ha due motivi. Il primo è per comprendere cosa intendeva Buddha per rinuncia. And secondly, to feel hunger, if there is hunger there. E il secondo motivo è di sentire la fame, se c'è la fame, se è presente. Yes, in our society, as soon as we have a little tickle in the stomach, we put something in it. Nella nostra società, appena abbiamo un piccolo solletico, diciamo, nello stomaco, ci buttiamo dentro qualcosa. So it's very rare for us to actually feel a level of hunger. Quindi è molto raro che noi possiamo effettivamente percepire un certo livello di fame. Now when we think that a billion people are undernourished. Se pensiamo che almeno 1 miliardo di persone sono sottonutrite. So this allows us to connect with those people in a compassionate way, you see. Questo ci permette di connetterci con quelle persone in un modo compassionevole. Now, renunciation in the Buddha's teaching is to see how strong a desire is. La rinuncia, secondo gli insegnamenti del Buddha, è proprio vedere quanto è forte il desiderio. And to sit with it and wait for it to die away. E rimanere lì con il desiderio finché non, in qualche modo, non si scioglie, non svanisce. By doing this, we undermine the power of that addiction. In questo modo noi indeboliamo proprio il potere di quella dipendenza. Oh, this compulsive behavior, you see. E questi comportamenti compulsivi. So, we also want to enjoy the biscuit and the drink. Però vogliamo anche apprezzare il biscotto e la bevanda. So, having taken your biscuit and made a drink for yourself, which you will delight in. Quindi, dopo che avete preso il vostro biscotto, vi siete preparati una bevanda che vi godrete. Find a lovely place to sit or a quiet place. Trovatevi un bel posto dove sedervi, un posto tranquillo. And find your connection, your relationship to the biscuit. E trovate la vostra connessione, la vostra relazione col biscotto. And then, as you take it, you see, only take little nibbles. E prendetene proprio dei morsi molto piccoli. Cancellatelo. And really turn it around in the mouth and enjoy it. E poi fatelo girare, rigirare in bocca e godetelo bene. And then at some point we swallow. Poi a un certo punto lo ingoiamo. And wait, you see. Poi aspettate. and then feel it more. E poi sentite questo, questa voce che dice ancora. So, now, they come, if you can, after a few bites, when the initial delight becomes ordinary. Poi dopo un po' di bocconi, quando questo, questo piacere iniziale diventa ordinario. Mm. Put yourself in the position of a person who is testing the biscuit for the market. Mettetevi nella posizione di una persona che sta testando, diciamo, il biscotto per poterlo immettere nel mercato, sul mercato. Like a wine taster. Come un sommelier, si dice, quelli che gustano il vino. So the wine taster is able to appreciate fully the flavors within a wine. Quindi il sommelier riesce ad apprezzare pienamente tutte le sfumature di gusto in un vino. And then they spit it out. E poi lo sputano. So now I'm not suggesting you spit your biscuit out. Allora io non è che vi sto consigliando di sputare il biscotto. Even so, we put ourselves into the attitude of someone who is investigating the tastes of a biscuit. Però ci mettiamo in quella posizione, in quell'atteggiamento di una persona che sta investigando sul sapore del biscotto. And hopefully we can see the distinction between eating for indulging. Quindi vedremo la differenza tra il mangiare per indulgere, cioè per godercelo, no? And eating for appreciating. E invece il mangiare semplicemente per apprezzare. You may find that it's not so joyful. E potreste scoprire che non è così una fonte così di gioia, diciamo. Because the greed is not being satisfied. Perché è come se l'avidità non venisse soddisfatta. So there is some dissatisfaction. C'è sempre un po' di insoddisfazione. Maybe some unfulfillment. E quindi anche un senso di non piena soddisfazione. So we feel that as well, you see. E quindi anche quello lo percepiamo. And when that begins to disappear, then there is a greater appreciation of the biscuit. E quando quella sparisce, allora c'è un maggior apprezzamento del biscotto. When the biscuit is finished. Quando il biscotto finisce. Gaze at the empty plate. Fissate il piatto vuoto. See if there's any grief. Vedete se c'è un senso di perdita. Then you know this was there was some attachment. E lì a quel punto vedete che c'era forse un attaccamento. If there is still the desire for yet another biscuit, you see. Se c'è il desiderio per un altro biscotto. So we stay with these desires till they fade away. Restiamo con il desiderio fino a quando non sparisce. And at the end of it we should feel a contentment. E alla fine dovremmo sentire uno stato di soddisfazione, diciamo, di appagamento. Appagamento. Contentment is a mind without desire. L'appagamento è proprio una mente priva di desiderio. And this is the Buddha mind. E questa è la mente del Buddha. When we eat to satisfy ourselves, there is also some sense of contentment. Quando mangiamo per soddisfare un bisogno, c'è anche qui un senso di appagamento. But this is a false contentment. Ma è un appagamento falso. This is a gratification. Ed è più una gratificazione. Because when time passes, we want another biscuit. Perché poi quando passa il tempo vogliamo un altro biscotto. So this is very tricky stuff. Quindi è un ambito molto ingannevole. Buon appetito.